Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Il saluto più cordiale a tutti voi cari ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Caro Antonio, eccoci qua anche stasera in pieno, all'inizio di dicembre, no? Qui il tempo sfugge come al solito, naturalmente. Il mese di Natale, il mese delle feste, il mese dei bagordi. No, con moderazione, diciamo. Ecco. Vabbè, dai. Comunque. Allora diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Certo, come sempre. Allora Antonio, chi abbiamo stasera? Una graditissima ospite virtuale. Che è la signora Franca Turchetto. Esattamente. La tipica donna veneziana, cosa dici tu? Sia così? Assolutamente, se ce n'è una tipica è sicuramente lei. Vabbè, comunque prima ci ascoltiamo la canzone e poi avremo al telefono la Franca. Va bene, allora la prima canzone in programma è intitolata Vecchio Gondolier ed è cantata da Gino Latilla. Antica e dolce come un madrigale, sempre se Venezia un sogno musicale. Vecchio gondolier, spiegami perché tutto intorno a me musica che se mi non so cantare, voce mi non può, Venezia ti se sa, tutta ispirazione sotto il ponte dei sospiri nel chiaror lunar. Se un poema senza fine star ad ascoltare, vecchio gondolier, spiegami perché tutto intorno a me musica che se. Eccoci di nuovo in studio e al telefono abbiamo la signora Franca Turchetto. Pronto? Sì, pronto. Ciao Franca. Ciao Franca. Ciao Gesi, ciao Antonio e buonasera. E bentornata. Grazie a voi e ben sentiti. È sempre una cosa gradita sentirti. Con simpatia, grazie. Amicizia e affetto. Grazie, grazie. Grazie a voi. Stasera Adottami a far parlare in italiano. Ascolta Franca. Ascolta, buon di me. Prima che tu cominci la tua conferenza. Ecco. Io vorrei, così vista la stagione che stiamo percorrendo, vorrei leggere una poesia. Sì. Dico forse Tu ti ricorderai anche chi l'ha scritta? Ciò non so. Va bene. Proviamo? Proviamo. Come l'autunno. Ah, ecco. Di Franca Turchetto. Chi se, Madonna, presenteremo sta signora. Le foglie ingiallite distese per la via danno l'ultimo saluto alla stagione morente. E dove il bacio del sole riempiva spazi verdi, il ramo secco si culla, offrendo leggere carezze alla nebbia novella. Pallidi giorni avanzate, avvolti di malinconia, cancellate il vivace colore dell'ultimo fiore che ritarda a morire. Anche il mio amore così si spegne, annullato da un cuore che non emana più calore. Ti vorrei tanto, ogni giorno, quel momento, l'attesa del dolce ti amo. Ti vorrei tanto, ma il tuo respiro profondo è l'eco di una voce lontana. E come quel fiore appassito, anch'io ho bisogno di un nuovo sole, della primavera, che mi ridia la vita. Grande. Bella, però ti vedi quel bacio, quel sospiro, se perché non si aveva i denti. bisogna fare un fiore di ironia. L'ironia è sempre un'arma vincente. Comunque complimenti all'autrice. L'autrice. Allora, è già finito il giorno. Primo dicembre, sì. Da domani 6 giugno è il mese delle spese. Ah, sì. Vesilta Queen, spendei tutti. E anche il mese dei bagordi. Boete. Cosa è tutto, va bene. Allora, anche se è passato un mese, diremo, mi stasera volevo spiegarvi un fiantin come che è nata la storia del culto dei defunti o dei morti. Bene. Ecco, e quello che adesso mi vi spiego... E si tratta da una conferenza tenuta da Monsignor Antonio Niero all'Ateneo di Venezia e si datata 21 del Iese, addirittura del 1985. Mi sono andata a questa conferenza, anche se non capivo niente, perché ero piccola. E ho avuto la possibilità di avere una fotocopia e adesso vi spiego quello che Monsignor Niero ha esposto, insomma. Quindi dimmi. Eri piccola, hai detto. Che ciò, non avevo gli anni che ho adesso. Cioè, ero piccola nel senso. Quindi, che lui sarà più vecchio ancora. No, se sei vivo. Sempre sei vivo, vabbè. No, penso che ero piccola. Quando dico che ero piccola, ero agli albori delle mie curiosità, ti hai capito? Ah, sì, sì, sì. Perché non sono nata curiosa, sono diventata dopo. Questo è interessante. Vero Antonio? Sì, di solito si comincia nell'adolescenza. Mi spiego come che si sta dito, non so d'accordo, no, sul motivo sì, ma che se spostamenti, dati, va avanti, va indrio, ad ogni modo la storia si qui, mi ve la dico come che agovere. E noi l'ascoltiamo. Ecco, allora, la storia del culto dei defunti e delle tradizioni funebri e se antica e anche complicata. L'uomo, dal momento della sua apparizione sulla terra, è sempre scontrato col gran mistero, quale sua sistemazione di propri cari. I primi nomadi li abbandonava sul posto e non si preoccupava, già era naturale. Perché una volta mi ricordo che ho visto un film sui quei che vive gli schimesi, diremo. Cioè, quando chi partiva con quei rene, con tutta la sua tribù, il nonno, il vecchio, che non gli faceva più perché non aveva neanche più denti da mangiare foche, restava là. Sì, sì, moriva pian piano. No, io stavo là, non sai che magari io avesse rancurato. Sì, sì. Questo era l'origine, come che si cominciava. Questo abbandono, insomma. Sì, sì. Allora, ma il tempo passa e cambia anche le usanze. Non più con l'abbandono, ma si comincia a tenerli da conto dentro le proprie abitazioni. E qua forse venimo alle caverne. Uh-huh. Ti ha capito? Mettevo là, allora. In famiglia, con speranza di un prossimo ritorno a vita. E se teneva il morto, io preparava bene e sperava che stava in compagnia con io, non gli dava fastidio e neanche a schifo. Forse, chissà, speravano nella reincarnazione. Sì, ma chissà cosa, parliamo sempre ai primordi. Sì, appunto. Della civiltà. Qualche anno fa. Sì, sì, sì, e cioè la storia comincia così, no? Solo più tardi, e ora passa secoli, e capisce che era necessario trovare una sistemazione riservata proprio al riposo eterno. Così col nascere del cristianesimo si farà in modo di risolvere il problema, distinguendo le due realtà, e gli ha istituito e avere proprio commemorazione. Questo fatto qua, diremo, ne riporta nei monasteri cluniacensi da Odilone, un abate di Cluni, in Aquitania. E sta Aquitania appunto si trova nell'alto corso del Rodano, ai confini tra Francia e Svizzera. E siamo al X-XI secolo, perciò ti vedi dall'origine... Avanti Cristo o dopo Cristo? Già passati miei anni. Perciò i demoni se erano indispettiti, erano neri come a peste, dovuto alle orazioni dei religiosi, perché ci cominciava anche a fare qualche preghiera, qualche benedizione con confiare acqua, non so qua, a cui fumi, qui penei, cosa facevi. Indispettiti come a peste, dovuto alle orazioni dei religiosi, perché appunto aveva forza di portargli via le anime. Ecco, ci sa che è accesa col paganesimo che ha sempre avuto. Allora, Odilone, quello che ha istituito sta regola, insiste che cerimonie fosse fatte a sera dei santi, che è il giorno che a volta al 13 di maggio, perché ricominciava l'anno in principio. I primi mesi dell'anno, sia all'inizio, fine inverno e inizio primavera. Ho capito. Questo era il Capodanno antico, anche a Venezia aveva quel Capodanno. Ah sì? Cominciava sì, di marzo. Perché... Ah, di marzo? Di marzo? Sì, sì, sì. Sì, sì. Il battimarso. Con la caduta della Repubblica si sta ripristinando, ma Venezia cominciava il 21 di marzo. Ah, addirittura primavera. E io chiamava More Veneto, cioè calendario alla Veneta. Alla Veneta. Ed era in drio di un anno. Ah, però. Ma, sì, ciò sì. E ora, in tutti, dunque, io avevo istituito, insomma, queste cerimonie a sera dei santi, appunto, per fargli avere dopo il giorno di morti. E in più, in tutti i monasteri, durante tutta la notte, questo era l'ordine. Anche per la gente italica, di regione romana, il culto dei morti veniva appunto nel mese di maggio. E io facevo nei giorni, tenive nota, 9, 11 e 13, fai un terno all'otto. 9, 11 e 13? Sì, un terno all'otto. Quando Roma... No, ma di quale mese, scusa? Maggio. Quando Roma versiva el mundus, una parola latina, che cavo se sto mundus, praticamente che se sta il mondo. Io riversiva il mondo, adesso vi spiego. Sto mundus non era altro che una busa che veniva scavata vicino al pomerium. Sto pomerium era un largo fossato che circondava tutto attorno e invece mura di Roma. Io riversiva sta busa, che era il fossato, e adesso era cosa che faceva. Sì. E perciò l'aldilà, perché praticamente dentro sta busa che c'era gli spiriti e anime di morti, no? Sì, l'aldilà sì, sì. Per tutti i popoli si sta sempre considerato sottoterra, doendo esempio che anche Gesù va giù a inferi, perché c'è dei quadri che dimostra questa scena che Gesù va giù o l'inferno, diremo. Ecco, si ti vedi. Pensavo che i morti andassero... Sì, sotto anziché sopra. Ecco, e difatti anche Gesù vai per liberare, Gesù si andava per liberare le anime dal limbo. Ho capito. Ecco, e ora torniamo ai sacerdoti. Quando i sacerdoti romani versiva il benedetto mundus, gli cavava via una specie di sigillo di pietra, perché forse era piombai, aveva messo c'è un tocco di pietra della sì, sera. Sì, come, io se, percivo, come sepolcro di Gesù. Che era. Sì, se, praticamente io riteneva sera tutto l'anno, cos'era il giorno di questo 3 maggio, che era giornata, era, lo tiravano io via. Sto busto, sto blocco di sto pietra. Blocco di pietra, tenendo però il viso dalla parte opposta, mi era faccia a faccia, che voltava i spai. Perché io voltava i spai? Perché dal buso poteva saltare fuori i morti. Ti vedi, dico, la storia come che a cuore. Sì. Ecco, sti morti, ed era ciamai menores, se portava scarogna o mani, perché poteva essere anche indispettita, essere disturbati, quindi a tutti andava bene. E manes, invece, si portava giorni allegri, beh, se c'era buoni, insomma, se c'era cattivi, c'era i... Ma anche i morti erano buoni e cattivi. E invece, ascolta, tutti quanti che morimmo, siamo buoni o cattivi, dopo siamo tutti... Dopo non si sa. Ecco, nei giorni predestinati di questa cerimonia, c'era consigliato di stare dentro in casa, chieti, chieti, in silenzio, e intanarsi dentro le proprie case senza neanche venire fuori, perché tra le notte di santi e i morti che voleva rispetto. Adesso non ne sei più. Adesso dovremo a lui. Adesso sì. Adesso sì, appunto, a lui. Ecco. Allora, i sacerdoti che veniva sto mundus, girando che spai, appunto, i buttava drio e spai, manae de fave. E così. Sì, da questo derivano le fave dei morti. Sì, sì, sì. Perché appunto ste anime e zera goiose, avide e anche ingorde di fave, guarda le storie e leggende. Come d'altra sì. parte. E quando mangiava e trovava nutrimento e stava buona e quete per un altro anno. Stava e si riforniva di fave come scoiacchi e nosei. Bene, bene. E restava calma e tranquilla. Curioso se non tardi, diremo, come sti antichi usi, spesso e volentieri di origine pagana, i saltafora nella liturgia cristiana o nelle tradizioni popolari. Perché a Cesa si cazzava tutte le feste pagane e le cristianizzate. Sì, sì, sì. Aspetta un attimo, Franca, sì. Ci ascoltiamo una canzone e poi proseguiamo con la tua. Sì. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Adriano Celentano, è intitolata Dormi, amore. Questo gran silenzio quasi fa rumore, sono ancora sveglio e sto ascoltando il cuore. Fuori nell'immenso domina la notte, mentre i miei pensieri fanno ancora botte. Quale strada ha scelto questo mio destino? Sapere dove andrò. Come un vento con gli alberi vedrai muoverò. Sfiorerò le ginestre giù per mille sentieri. Con altre mani ti accarezzerò, con l'aiuto dei gabbiani disegnerò impossibili figure che potrai interpretare. Dormi amore, non ti svegliare, no, non temere, con altre mani ti accarezzerò. Ci sarò, ovunque tu sarai, il mio respiro sentirai. Dietro la finestra mille luci in cielo, io che da bambino ero in cima a un melo, brividi di freddo questo mio pigiama, forse un po' leggero oppure il cuor che trema. Quale strada ha scelto questo mio destino? Sapere dove andrò. Con il vento sulle fronde per te suonerò. canzoni che amavi. Noi due soli, tristi e sereni, ma ancora uniti. Con altre mani ti accarezzerò, con le braccia spalancate laggiù volerò. Scivolando nelle valli, tra le verdi colline. Dormi amore, non ti svegliare, tra poche ore io con un bacio ti risveglierò. Ovunque sarai, accanto mi ritroverai. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca per un'altra tranche religioso-antropologica. Sì, antica come... Dove che me lo butta? No, dai. Ma ti vedi però se... Non tutto oggi non sapevo, no? Assolutamente, certo, no. Io... Decisamente. Sì, voglio dire, parlare dell'origine, come che è nata sta roba, che cosa adesso, guarda dove che siamo là. Io sono sempre stata abituata che i morti andavano in alto, invece... No. Anche a cosa si andai in ferì? Ulisse. Anche Ulisse, sì. Ulisse, quando che il traversa, diremo, le... Orca miseria, questa traversa, che il vasoso, soso, per vedere, che per trovare, chiede che trova sua mamma, tutti i morti che incontro, chi dice, ti mega tradio, salva anche lui, infatti, sì. che offre il capro espiatorio, che dà capra al vecchio, salva anche lui, tutti, va bene. Comunque, sono belle cose, sono leggende che ti piacciono. Sì, allora, il giorno dei morti prevedeva, e ora è un vese, qua siamo andati avanti ancora di secoli, no? Vese e orazione particolari. E Odilone, quello che ha istituito come orazione, per aiutare i suoi confratelli dai fatiche di queste cerimonie, perché era chi andava avanti giorni e notti a cantare, chissà cosa chi passava, non so neanche se usava l'incenso, che a volte aveva i cori, non so. Che a partire appunto da quel giorno A fosse distribuita per 9 giorni una doppia razione di fave. Queste fave. Unico alimento concesso perché sennò diventava massa grassi. Anche questa abitudine passa e va oltre i muri del convento e si diffonde tanto da far distribuire fave e seora o una sopa calda per rispetto verso i morti. Forse che cucinava solo le fave. Dava esse. E ora per aiutarli dopo gli ho fatto io buttare anche l'acqua senza dado, perché non riuscivo. E gli ho fatto una papparea, ma te dico mi. Che loro dovevano mangiare, erano senza denti. Era roba calda, perché allora per i greci e romani, questa è bella, e a fava faceva parte della simbologia funebre, e questo è vero. È il soffior della fava. Mi non l'ho mai visto. No, neanche io. E se di color bianco. Purezza. Ecco, e se punte A di macete nere, sto fior. E credeva di interpretare una sorta di scrittura funebre piena dei significati luttuosi. Dei simboli e compagnia. Il simbolo della fava. Pitagora, a Crotone, e forma anche una confraternita, tutte confraternite. Tutte confraternite. Obbligando i suoi seguaci a praticare una vita ora solitaria, severa. E pensa io che proibiva di mangiare fave. Oh, signore. Perché era un. Sua fava praticamente gli trovava il germe della vita. Ma guarda, niente, aveva da essere siappi nella fava, so. Trovavano il germe della vita. E ora invece coso Pitagora aveva sta concezione, stai qua, cioè, che mangiare fave che proibiva, perché altri invece credeva che i semi scondesse e agrime dei trapassai. Hai capito? Questo fa capire l'usanza di sto legume, che insieme ai fasioi si collega a tradizioni italiche. Sì. Adesso invece andiamo a Venezia. Andiamo a Venezia. Finito la parte celtica. La parte celtica, adesso andiamo a Venezia. Sì. Dunque, e vedemo l'usanza diversa di questo culto. È il colore del lutto, a Roma, già era il nero. Invece Venezia, allora è. Gera è rosso. Sì, sì, infatti è rosso, Gera segno di lupo. E ne è accesa di San Rocco, a Venezia, si conserva ancora i paramenti di sto colore. Che erano curate tutte le robe antiche, che si ancora si parano. Quindi durante le funzioni dei santi, dei morti, una volta io passevo adesso, sì, sì. Allora, e dice che anche la sepoltura si è diversa di quella che avevamo udito fin adesso, e a Salma veniva involtoata da un nisciol e coverta di stamigna. Sta stamigna mi guarda la cosa che c'era, e mi dà diverse versioni, mi te dico tutte e due, te ne dico due. Uno mi dice che era fatta di foglie secche, una specie di tessuto di foglie secche, per mantenere che fosse dall'umido. Sì, sì. Altri invece dice che sia stata una coperta, diremo, di copresiva, oltre che non sciolga, una coperta che era di pei di capra. Ma secondo me forse non so. Foglie secche più... Va bene. Attendibile, dice. Anche perché conserva più asciutto, no, la foglia. Sì, io facevo così. I riti per sepoltura. A Venezia i cimiteri si trovava intorno alla chiesa parrocchiale, non che era cimiteri. Li metteva sui orti, i giardini d'Adrio. Sì, che sì, li mettevano le fattorie. Allora, che c'era all'epoca 72 chiese. E 72 cimiteri, però cese parrocchiali, perché a Venezia che ne c'era più di 100 cese. Ah, e le altre cos'erano? E le altre erano minori, queste parliamo di parrocchie. Sì, sì, altre sì. Non erano parrocchie, erano succursali forse. E tante erano anche sconsacrate, perché magari erano malciapate, erano serai al culto per conto suo, insomma. E su questi cimiteri, diciamo, di queste parrocchie, ciò che aveva il privilegio, i nobi, che veniva a seppellì dentro i monasteri a pagamento, gli aveva tutte, gli poteva pagarsi i posti più bei, metteva anche sotto, dopo che faceva la tomba di pietra, di marmo, dove chi invece stati buttava una busa. Fossa comune. No, se no che c'era, non che c'era. I tempi passano, ma le cose non cambiano. Chi ha soldi ha diritti, ecco, chi non ne ha. Se poi i morti, quei normali diremo, o quei colpiti da epidemie e peste, perché dopo... che c'era anche quello, sì. Altro non che c'era che buttarli nelle isole sparse della laguna. Ora anche c'era terreno che faceva queste fosse comuni, buttava sulle isole. E anche quando che i cimiteri dei Cese c'era pieni, li scavava e li portava in deposito di ossi. Insomma, facevano tutto. C'è cosa che vi da fare? Di erba un fascio. Se non che c'era, ecco. Allora, sto culto, però. Se che sviluppa dopo il concilio del Trento, questo culto qua di far favore, quando è a riforma, dopo il concilio del Trento, perciò se nel 1005, 1004? No, mi ricordo. Il concilio del Trento, sì. O nel 1006, no? No, prima. Quando è riforma, mette a discussione, a realtà, sull'esistenza del purgatorio. Ti vedi? Prima sta altro limbo, questo che è il purgatorio. Insomma, sta accesa. Oltre che passeva quello che aveva ella, giustamente, perché c'era già il comando. Diverse evoluzioni. Sì, ma diverse evoluzioni, ma era addirittura poi tutte diverse, cambiai, ognuno che aveva su testa ragionava come che voleva, non che andava ben quello, non che andava quest'altro, se non che comodavi faceva fora. Se ti ricordi, il limbo era per i bambini che morivano appena nati. Sì, sì, che poi dopo il Papa lo ha, il Papa Giovanni, lo è, Wittilla lo cavava via, dopo lo cavava via anche il purgatorio, va bene. Ci aggiorniamo. Ecco, allora sta riforma e mette in discussione sta realtà sul purgatorio e viene istituito l'ottavario dei morti. Sto ottavario è una settimana di orazione continue davanti a altari, tutti vestiti di nero. Tutti altari, quando andiamo ancora più avanti. E che era gran crocifissi, grandi, e sti altari che aveva il privilegio di di avere concessione di indulgenze e di perdoni, e qua di Biscay. Ah, chi, ecco, chi aveva Biscay otteneva l'indulgenza, e chi non ne aveva... come... Ti che non cambia niente? No. E campane, quel periodo era, suonava tutta la notte per tenere desmissiai e famese in preghiera, e c'era una vera veggia funebre con i lumini, ti sai, come che si usa ancora in qualche città italiana antica, davanti, sì, alle immagini dei santi o ai fotografie dei propri cari. Sì, sì. Se ricordai i celebri ottavari in certe cese monasteri famosi sempre a Venezia, nelle zone di Pescaori, di San Piero e di Casteo, a Sant'Ufemia e Sueca, dove sono andata me, e faceva queste cerimonie qua. Sono i banchi da messa che c'era gran ibri neri. Ibri neri chiedeva in latino e orazione. E impegniva tutto di nero, insomma, gli altari erano neri, i crocifissi erano neri, i banchi erano neri, i libri erano neri. Tutto nero. Una roba divertente, non scarso. E anche allegra. Siamo di parlare. E che aveva i libri di rosso, solo bello, il profilo delle paginette, vi dico, dei libri da me. Sì, sì, naturalmente. Sì. O ciò dopo cantava in latino, ma... Sì, che poi, insomma, la gente cantava a squarciagola, però non ne capiva niente. No, latino no, infatti noi altri che preghiamo in latino, altri parlavamo già latino da piccoli, senza sapere cosa vuol dire, perché abbiamo appunto, in latino. Appunto. Ecco qua. Dopo che c'era sto catafalco, dopo faceva sto un catafalco grande, sempre nero, coco, sormontato a croce, e c'era rivestito di arassi e tante recite in latino. Mi questi arassi neri, mi viene in mente una volta che sono venuti a Treviso, cioè cattedrale diremo. Al Duomo o San Nicolò? Al Duomo, ecco, il Duomo. Non so se c'è ancora, e colonne dentro in chiesa. Sì, c'è ancora pavesai e fodrai di Damasco Rosso? Non credo. Non ricordo. Ecco, mi sono andate già le colonne che c'è a destra e a sinistra, e c'era fodrai di rivestire di un bel Damasco Rosso, un bel stoffa, insomma, un bel tessuto. E sì, c'era neri perché c'era il lutto. Sì, beh, d'altra parte... era tutto in tema, no? Ecco, allora torniamo, andiamo avanti di qualche secolo e arriviamo al 1700. Ma io penso che ci fermiamo un momento, sì, prima di andare nel 1700. Se fermiamo, ecco, e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, ed è cantata da Malika Yang, e che ha ripreso una canzone di Riccardo del Turco. Cosa hai messo nel caffè? Vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'è c'è. Non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da te, è un'abitudine ormai che non so perdere, sai. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, caffè che ho bevuto su da te. C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Eccoci di nuovo in studio con la nostra Franca. Allora, proseguiamo con le nostre leggende dei morti. Leggende, storie. Dunque, nelle osterie a Venezia veniva fatte delle questue per far fronte alle spese dei lumini e altre robe che gli servivano. Sempre quischei rancurai dai offerte. Quei che avanzava gli mandava fuori a Venezia a favore dei coroni trentini, e questo non so perché. Non so. Vabbè, insomma, prima gli faceva un'offerta più grande. E ora, come che cosa ho detto prima, Venezia, come tutti i posti, insomma, i posti di seppellire appunto sti benedette salmine e cese a proprio spese o buttai come chi dava, ma cosa è che gli succede appunto a quelle anime che riposava nei posti sconsacrai, qui c'era, e dove ci finiva i resti? I resti praticamente gli veniva portati nell'isola che aveva nome San Arian, che sarebbe una corruzione di Adriano. Sant'Arian, che è mai, mai sentita. Ma c'è ancora? Sì. Ah, che è un'isola abbandonata. Ah, ecco. Sì, un'isola di quei, proprio da Drio, fa conto, tra Buran, Murando, c'è cioè, tutto sopra, ma è, insomma, un isolotto. Sì, ma quello che ci mettevano. Sì, e ora, sta isola deserta, diventata nido dei ladri. Dei ladri, perché andava a portare via i resti di quello che trovava, perciò era abitata, che c'era convento, monastero, no. Una volta che l'acqua cominciava a non essere più amica di questa isola, che cominciava col maroso a buttare via, sfriguare, e che poche le murette rose gotiche che c'era, stava abbandonata, non serviva a niente, allora ha fatto sto cimitero comune. Allora, solo però come ossario. Era solo come ossario. Sì, mettevano tutte le ossa, ecco, lì. Allora, che si sta un periodo, sempre 700 o 650, il Senato di Venezia decide allora di innalzare delle muraglie, che ha fatto di muri, una porzione dell'isola, su un certo punto dell'isola, e ora ha fatto di innalzamenti del muro. E sto posto ed era destinare a curare gli ossi quando appunto i tombi di cimiteri era completo, li svodava e impegniva. Una usanza c'era, adesso quasi una usanza, c'era come una specie di roba, ma non saprei spiegarmi, insomma, una usanza, quella che nel giorno dei morti gli diceva che non si pescava né a Buran e né a Pestrina, e manco ancora a Caorle, cioè per rispetto appunto a delle usanze antiche, tradizioni, superstiziosi. Sì, non poteva andare a pescare, perché a notte ti vedi, Antonio, a notte, non mi ricordo quando ero più piccola, a notte tra gli onnisanti e i morti, se doveva stare quieti, in casa, raccolti, mette un lumino fuori dalla porta, perché dice che durante la notte degli onnisanti, il passaggio tra gli onnisanti e i morti, e anime e va in passeggiata. Trasmigra. E bisogna stare in senso e assarle quete senza disturbarle, perché ora ha bisogno appunto di preghiera per fare il passaggio da dove che esiste. Il raccoglimento, diciamo. Ecco. E invece ho sentito anche un'altra cosa, che il giorno dei morti era usanza, che mettevano un posto in più a tavola. Sì, tante usanze in tanti posti dell'Italia, dopo su altri cose, non so, ma mi chiedevo più e mi ricordo questo, perché diceva che bisognava stare in raccoglimento, in preghiera, siti, senza fare robe, perché queste anime dovevano passare tranquille e raccolte appunto con l'aiuto delle preghiere, perché doveva andare su posti che magari qui che c'era al purgatorio, che voleva una preghiera in più per andare più su, qui che c'era in inferno, che ne voleva sì. Più questo, se quel che ne insegna, Penso mi dicevo insomma che mi pescava né a Buran e né a Capestrina e manco ancora a Caule. Io gli dice sti modi di dire, chi pesca è il 2 novembre, gli diceva, che se grebalta è barca. Perché e anime dei negai in mar se rampega sua chiglia da barca di baltano perché vuoi venire su guarda che sono simpatiche queste superstizioni sì, sì, perché... e adesso finisco nel dir e qua quasi concludo che per le dito di San Claude, fatto da Napoleone nel 1800 e sie l'ordinava Napoleone, una delle uniche robe belle che ha fatto, l'ordinava di far costruire i cimiteri lontani dall'abitato. Esatto. E sì, quello sì che l'ha fatto bello. Sì, adesso poi addirittura i cimiteri ormai sono stati sì, ma adesso è tutto adesso... diverso, ma adesso parliamo di cimiteri qui proprio chi andava sottoterra. Allora, il nostro cimitero è stato portato nell'isola di San Cristoforo de Apase, dove c'è adesso, però... Esedo iso e tacae. Io dico se ca un piccolo rio. Io renterà e ga unio e do iso. Era prima della San Cristoforo di Apase. E nel 1036 io attacca all'isola di San Michele Grande. E di fatto siamo ancora San Michele, al nostro cimitero. Io non so se Antonio l'ha mai visto. No. E se ha buttato in mezzo alla laguna. E se di fronte Muran, sì, questo sole, questo poco, ma insomma sta. Sì, vabbè, no. Non c'è anche il cimitero dei morti, no? A Venezia. E c'è questo che ti dico, San Michele, sì. Ah, è questo. E se trovi San Michele Grande, perché se due isole attaccai, prima San Cristoforo di Apase, dopo il Gaunio, il Gasseca, un tocco del Rio, io Gainterà. E unio ste due isole, perché una volta che c'era di ingegneri di idraulica, altro che adesso col Mose, ne passeva e ecco, e si trova lì, in mezzo alla laguna, de fassa l'isola de Muran, e se ancora ha. Adesso, e fa mese, cioè, da Venezia centro andare a, come facevi da attraversare la laguna? Se la laguna quella diremo quella l'immensità è un tocco della laguna è più secca è manco acqua fonda sì. Di quella dove chi va a pescare andava anche ma insomma non aveva sotto tanti canaetti storie di famiglie per andare a onorare questi suoi parenti doveva adoperare come mezzo di trasporto o un traghetto di barche che andava su e giù o chi aveva la barca andava qua sua. Perché non c'era che a volte i vaporetti e neanche i motoscafi. Perché qui hai se veniva l'avvento del batteo e se veniva nel 1888. Sicuramente i signori avranno avuto una barca di lusso. E che avranno avuto... Tipo gondola. Che avranno una gondola ben su, in ogni modo che toccava andare un calori. Sì. E ora ti vedi, proprio con imbarcazione proprio, ma quando arrivava l'inverno, cosa succedeva? Piova, vento, caigo, impraticabilità, ora, neve sì. E cominciava i disagi anche qualche disgrazia, perché c'era laguna, c'era acqua e poteva succedere che qualche ribaltone che c'era. Dopo. Anche allora sì, qualche incidente ecco, succedeva. Col tempo, passa del tempo, viene fatto per quel giorno e ai giorni di ogni santi morti, viene fatto un ponte di barche come quello che fa l'Edentoro. Ah. Un passaggio di barche, pensi te che ongo calzera, perché, sì, perché quello sì. dell'Edentoro fa conto i 17 metri di profondità, i 30 metri quello della giudecca dell'Edentoro. Questo fa conto sarà anche il doppio. E che ha fatto sto ponte provvisorio, però anche quello diventa pericoloso per i giorni di intemperie. Sì, perché quando ci sono le intemperie, ma in questo periodo poi ci sì, sono... Sì, metti caso che venisse fuori una bufera, insomma, era pericoloso anche il ponte, perché era una processione, che non vi dico, ponte nero, barche nere, acqua nera, tutti vestiti nero. Tutto nero? Tutto notte? Insomma, però anche è scuro, perché non c'era, penso, neanche illuminazione, no, qualche candela, no, ogni modo, insomma, vedo che sempre andai, i disgrazi succedeva. E si era sistemato tutto questo discorso di sto ponte e con l'avvento dei primi battei. E appunto Geremo nel 1888. E ho ricominciato a mettere qualche mezzo di trasporto. Regolare proprio. Ecco, come che adesso, insomma. Era molto comodo il battello allora, perché se no... Sì, ma cosa... ti dico che ho fatto una rotta anche col battello, perché i gondolieri noi voleva sempre per il Monte Ondoso, e iva ancora a fare rotte col Monte Ondoso. Già che a volte che c'era un battello a vapore, andava anche a figuriamoci adesso. Come i battelli del Mississippi. Ma i primi battelli erano a remi? No, qua no, a remi Sì. No, e cosa il burchiello della remi? No, io pensavo a quando attraversavo un ponte lì a Mantova, che non c'era ancora il ponte in qualche paese. Ma sul fiume, Tiseri, è diverso, no? Ad ogni modo, questa è un fiantino, insomma, quello che... E quindi in sostanza i battelli di allora anche a Venezia erano a vapore, però, logicamente. Sì, a vapore, ecco, dopo... come c'erano i treni a vapore, c'erano anche i battelli. Sì. Dopo che se no, torniamo un attimino all'usanza della fava a Venezia, fava di morti. Praticamente nella località dove che viene chiamata ancora Ponte Cae Cesa della Fava, esisteva una famiglia che appunto aveva un deposito di ste fave. Però un giorno i proprietari, adesso ti racconto così come che a sua memoria, sti fave ad aver fatto un fiade maretta e contrabbandava sal. Sale, sì. Faceva contrabbando di sale. Oh, mamma mia. Insomma, parliamo di secoli fa. Sì, sì, beh, allora, ma i contrabbandi... Sì, allora, siccome chi ha avuto una spiada, doveva capitare di sbirri in casa, cosa hai fatto? Che ha coperto questi sacchi e il sale con delle fave. Proprio fave... Sì, sì, fave, quelle secche. Sì. E siccome che c'era da Drio, dove chi si andai ori, è l'immagine della Madonna miracolosa, i sega affidà ai cure della Madonna. Ah. Tanto se è vero che quando chi si andai, salina trovai che trovai fave. Ah, hai visto. Aspetta un attimo, Franca, che dopo facciamo l'ultima, ci ascoltiamo un'altra canzoncina. E allora questa volta, visto che siamo a Venezia, parliamo del mare, e visto che Antonio ama questa canzone... Ascolteremo La Mer cantata da Sialtrenè. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Ed eccoci qui di nuovo in studio per l'ultima tranche di questa interessantissima prolusione della nostra amica Franca. Tornando a un traghetto di fava, in antico proprio i veneziani il 2 novembre immaginava fave in gran quantità e dispensava ai conventi, ai poveri e ai gondolieri di traghetti come premio al servizio che durante l'anno prestava e che prestava ai religiosi facendoli passare da una riva all'altra del canale a gratis. E lì che dava un regalo, una zuppa di fave. Insomma, è anche nutriente la zuppa di fave. Si usava perché appunto con inverni freddi o col ponte o senza ponte, se toccava una giornata di caigo era freddo, ora magari la popolazione dell'Ottocento non era come adesso, non aveva capotti, stivali, che aveva calciaetto e nero, un fassoletto in testa, era intirissì dal freddo, e sapendo che da questi conventi che sposeva sta squadrotta di sopra andava a scaldarsi un festone, certo, perché ed era anche una roba, insomma, perché sempre starsi conventi che era il pignateo, andava con il pignateo a Tursia, non so, perché i conventi avevano sempre tante cose. E ora tanto si arriva, insomma, che il progresso è fave in legume e si è convertito in fava dolce, cioè piccole pastigliette buone, e c'era un dolce di pasta e zucchero, c'era colorai piccinini, chiamai fave, e c'era originarie della Grecia. E se mani ancora adesso sono il giorno dei morti. Sì, ben, cioè, sì. Se ti va un giorno che non gesetti, devi dare un sacchetto di fave e non ti trovi. Ah no? Sì, no, è proprio il periodo proprio prestabilito. Sì, come, San Martino. Come San Martino e Cavallo, infatti. Sì. Ti ha capito. Sì. Ecco, dopo che appunto faremo un'altra volta, io che ti pensi che con tutti questi cambiamenti, queste feste, queste robe, il culto dei morti, diremo quei pagani, che sarebbe la definizione di Halloween, era una festa celtica, che risaliva addirittura al 2003 avanti Cristo. Pensa un po'. I Celti, quando le popolazioni cominciavano a migrare nell'area mediterranea fino alle coste della Britannia, e sta tre usanze più sentite, appunto, c'era la fine dell'istà, che si chiamava Samhain. Fine dell'anno. Fine dell'anno. Che è tempo? Sì, tranquilla, ancora qualche minuto. Ecco, Niga aveva paura di morti, gli assava da mangiare sulla toa in segno di accoglienza. Questo l'ho sentita anch'io. E si celebrava la notte del 30 ottobre al 1 novembre come omaggio al Signore della Morte. Gli si mascherava con peame di animali per far che c'ha paura i spiriti cattivi. Per l'occasione, case, strade e tutto intorno, già illuminai da rappe, non so buona capire. Rappe? Rappe, cosa che... Le rappe, se... Sì, ho capito, ma illuminai dai rappe. Forse mettevano un lumino dentro, non so. Piccolo, che a sua volta, col tempo, gli americani trasformerà in sucche. In sucche, esattamente. Forse le chiamavano rappe prima. Ecco, sì, sucche in tazai, con dentro dei stecchetti dei nipisai e sucche. A ricordo del sacro fuoco... Donai al diavolo, perché era robe, se sta ricorrenza ne riporta all'antico paganesimo, perché i paricerti segnava l'inizio del cult Darkon Deam, un vero culto nero. Un vero culto nero, mamma mia, tutto nero! E c'è i pagani, c'era, cioè lui che aveva paura di trapassare e per dare segno di accoglienza gli assava appunto sto mangiare sopra la toa. Mi ricorda per esempio Asterix e Obelix, giustamente, anche forse, che mi parlavi di queste pellami, eccetera, anche le maschere dell'Alto Adige. Qui chi fa, aspetta, non so se cosa sei mai. O i mamutones, no, quei del caso. No, Gesuso. Sì, della Sardegna, no, questi proprio in Alto Adige, ecco. Chi fa in tutta la zona probabilmente alpina, eccetera. Sì, sì. Tutti questi residui praticamente culturali dell'epoca. Appunto, tre righe, sti usi che se meglio che non vi dica adesso, non mi esprimo, però durante la Vegia veniva in pittura i teschi, origera raccoglitori dei teschi, perché c'era taglia teste. Gente divertente, insomma. Sì, sì, sì. impitturava e dopo beveva e cantava e faceva e orge. Beh sì. A ricordo di queste vege si trova ai tempi nostri nella notte di Halloween. Che viene così mascarai da scherzi, da fantasmi, mi mando il ritorno di Zappa. Che richiami proprio antichissimi. Non hai composto neanche una poesia su questa? No, perché non ho... Dopo la festa di ogni santi è stata l'origine romano quando Papa Bonifacio trasforma il Pantheon, che già era dedicato a tutti i dei dell'Olimpo, in una chiesa in onore della Vergine e di tutti i santi. C'era il 13 maggio del 69, metodo di Eufemio. Quindi, insomma, in maggio si celebravano queste cose. Perché insomma, dopo che cambia, dopo che si sa chi che cambia il giorno, io porta il 31 io porta all'epoca nostra per il fatto che festeggiando che adesso temo sia i pagani sia quei nostri, io passata, io li festeggiavo a maggio, in primavera, in altri in autunno, perché a Roma è stata trasportata, perché il gran numero di gente che arrivava a Roma, che a volte quando chi spostava le date, immagino che c'era niente da mangiare per tutti. Ah. Invece a novembre si trovava la grazia di Dio. Eh sì, perché... Tanta roba buona, non curata di orto, perché c'era i funghi, che c'era... Quindi motivi logistici. Però... Sono motivi logistici, sì. Credi che c'è tutta una roba che... Insomma, infatti, però novembre è più indicato per le feste dei morti. Dai. Sì, ma io si faceva maggio perché i serava è stagione invernale. Sì, ma dico, però come mese è più indicato novembre per festeggiare, più in tema. Stratificazioni nei tempi proprio. Aveva maggio, io ti avevo maggio. Infatti chi che aveva istituito, c'era un inglese di York, che i Celti consideravano il primo novembre giorno di solennità perché segnava l'inizio dell'inverno. Il spostamento di questa data pare che sia stata determinata dall'influenza anglosassone francese del 1475 sotto il pontificato di Sisto IV. Noi ti ringraziamo. E io ringrazio sempre il tempo è tiranno con noi. Io so, Fio, mi domando scusa. Va benissimo così. Noi ringraziamo te. Niente. E alla prossima. E no? Un ciao a tutti. E ciao a tutti. Ciao Franca. Ciao. E così ringraziamo la Franca. Ringraziamo molto. Bella... Certamente. Stavo per salutare anch'io, invece abbiamo ancora un po' di tempo. No, abbiamo un attimo. Volevo leggere qualche riga del professor Siega, per modo di dire. Canal dei Marani. Si ritiene che in detto canale fossero in antico gettati i corpi dei segretamente giustiziati per tradimento e viltà. Di qui il falso etimo Marrani. In realtà i Marani o le Marane erano grosse barche che servivano per il trasporto di pietre e di marmi, forse facenti spola con l'Istria. Un'interessante precisazione di Pietro Scarpa dice: nel silenzio delle fonti, a mio avviso, è tecnicamente possibile che l'etimo di questo termine, più che dall'altra sponda dell'Adriatico, derivi dalla laguna di Marano sopra Grado Eraclea, culle della Repubblica, nella quale questo tipo di imbarcazione avrebbe potuto essere nato o utilizzato. Non dimentichiamo che praticamente da Pomposa alle foce di Lisonzo le lagune erano senza soluzione di continuità, se è vero che nell'anno 1000 l'imperatore Ottone III, che alloggiava nell'abbazia, fu portato nottetempo nel convento di San Zaccaria, sede di quelle monache che erano figlie delle più cospicue famiglie veneziane, per incontrarsi segretamente col doge Pietro Orseolo II e gettare le basi del futuro ordinamento europeo. Altro che 1000 e non più 1000. Ma brillante deduzione. Simpatico, sì, no, molto decisamente. Simpatico. Vedi che c'è sempre qualche addentellato, qualche precisazione così da fare. Niente, e siamo arrivati proprio... il nostro tempo, proprio... come dicevo prima, è tiranno e quindi non ci resta che salutarci. Naturalmente, e dire alla prossima volta. E salutare tutti i nostri ascoltatori col solito ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.